pensarci diventa peggio. Mi faccio governare dalle situazioni. Nascere non è mai facile, compresso dal peso delle contrazioni. E se ci penso mi guardo ancora allo specchio, libero da tutte le frustrazioni. Qual è il sogno e qual è la realtà? Qual è il sogno e qual è la realtà? Qual è il sogno? Qual è l'incubo? Qual è il sogno? Qual è l'incubo? Qual è il sogno e qual è la realtà? Qual è il sogno e qual è la realtà? Qual è il sogno? Qual è l'incubo? Qual è il sogno? Qual è l'incubo? Mi sveglio di soprassalto e tutto il mondo è una delusione. Ma se dimentico tutto le cose riprendono la loro naturale posizione. Loro mi pensano matto, controllano sempre la mia posizione. Se mi sposto di un attimo vanno tutti quanti in confusione.